Grazie a tutti voi per la cortese attenzione. La sigla può darsi che parta da un momento all'altro, comunque questo non è importante. Grazie a Ezio De Gradi per la regia e l'appuntamento rimane confermato a domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata. Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva.